buonasera a tutti. Con questa musica epica iniziamo questa nuova puntata dell'arte del non si sa cosa Izio. Siamo all'arte del Patrizio. Buonasera Patrizio. Non è che se non parlo io voi non potete parlare, eh? Mi sto intrippando sul mixer. Rompiamo il ghiaccio. Benvenuto a tutte le entità in ascolto su Radio Wombat. Questa è l'arte del vizio e in questa puntata siamo all'arte del Patrizio, perché parliamo di lusso. Lusso sfrenato. Lusso in tutte le sue accezioni. Derivazioni. Colazioni di lusso. Potete già scriverci cos'è il lusso per voi. Partiamo subito con chiediamo pareri, feedback. Sì, allora facciamo subito così. Le cose di casa sono andare su radiowombat.net e mettere su lo streaming e poi magari far partire un altro tappetino. Niente, ci siamo persi così. Parlate. Sì, no, non possiamo pretendere troppo da questa persona poco multifunzionale, dai. Allora, questa sera parleremo di nobiltà. Fra le varie cose, anche sì, di nobiltà. Nobiltà nella sua accezione più alta, ovvero il lusso. Non di nubiltà. Di mobilità. Neanche di nudità. Nudità ne abbiamo già parlato in parte. Ne parleremo ancora. Vabbè. Ma facciamo un giro di presentazioni. Oh, esatto, mi sembra giusto. Allora, al microfono abbiamo innanzitutto stasera il nostro reverendo, come sempre. Viva. Sì, sì, sono un po' silente stasera. Sei un album. Ma silente sono io. Ah, scusa. Silente, si presenti. Eh sì, niente, mi paleso così, Reve mi vuole rubare il nome, ma vabbè, salve a tutte. Ciao Silente. Ciao. Che gran ritorno, cavolo. Alla tastiera per voi. Bravo, si autointroduce. Facci due note durante l'intro delle altre entità. L'avevo mutato perché era molesto. Il tappetino di questa puntata è gentilmente offerto allora, dal sta roba Silente. Perché veramente non ci stavo. Ma facce sogna. Continuiamo con le presentazioni. Abbiamo sulla nostra panca sulla sinistra, che voi persone all'ascolto non vedete. Salve, sono l'imam. Salve imam. Abbiamo un imam tra noi stasera. Io sono Slim. Ciao, io sono Bright. Ciao Bright. Bright, yeah. Quindi reverendo Gengè. Sì, al microfono evviva. Uno Gengè. Bella storia. Bene, allora diciamo la seconda puntata più o meno con questa formazione. Vediamo se riusciremo ad essere un po' più spediti rispetto alla volta scorsa. Cioè, ci eravamo intrippati persi nel nostro alone di goduria per visioni. Forse siamo stati un po' troppo molesti per gli ascoltatori, secondo me. Cioè, era un po' inascoltabile, forse. Cioè, a meno che non stavi cucinando e fare altro, cioè ascoltare solo quella puntata. Vabbè, aspettiamo dei feedback, cioè, nel senso, per se giudicare. Non vuoi ascoltare, non ascolti. Robe interessanti ce n'erano e ce ne saranno anche stasera. Siamo contro questa produttività anche nella velocità di fare podcast. Perché sprecare parole? Ma davvero, allora alziamo sta musica. Allora, queste sono Last Beast Tex, sempre molto cariche. Come Spagna. E su queste note abbastanza cariche io direi di partire. Sì, sì, ma sì. Siamo già partiti. Siamo già praticamente partiti. Allora, abbiamo detto l'arte del patrizio, si parla di lusso, forse, chi lo sa, però non si parla senza di voi, perché sennò tutto questo diventa solo monodirezionale. Per cui se andate sul fantastico pad della diretta Wombat, quindi andate su www.radiowombat.net, nella sezione contatti trovate il fantastico link per interagire con noi in diretta. E eppure sì, se no ci ascoltate anche in AM, bellissima, tornata sull'antenna forse a 1359 kHz nella modulazione di ampiezza. E io lascio a voi la palla. 1, 3, 5, 9. Dai. Allora, possiamo iniziare leggendo una noiosissima e alquanto classica definizione di lusso, già sbadigliano dalla punk. Lusso, per il vocabolario Treccani, si indica sovrabbondanza, eccesso nel modo di vivere, dal latino luxus, e sfoggio di ricchezza, di sfarzo, di magnificenza. Quindi poi anche non necessario, quindi qualcosa che non è fondamentale per la sussistenza. Quindi abbiamo già delle connotazioni, cioè il lusso è qualcosa di non utile, non necessario, e che ci serve a mostrare qualcosa, no? Come le colonne, ostentazione arquitettonica. Jonica, Jonica, Corintia, Corintia, Corintia, Corintia, historia del arte, penes con pincel, famosos, pintaje, sin pixel con papel, Da Vinci. Ma è davvero non necessario il lusso? Questa è una bella domanda. È la domanda della puntata. Vediamo se a fine arriveremo a una risposta. Sì, l'imam, io dall'imam stasera mi aspetto grandi domande. Beh, è più o meno il mio mestiere. Svelaci i misteri. Se ha alzato una mujer y ha plantado un pino. Cecilia è su nome, ex de homo, es divino. Oh no, otra vez tu. Oh no, otra vez tu. E insomma, questa definizione di lusso mi soddisfa? È un po' scarna. Un po' scarna, no? Lascia fuori tante possibilità. Per fortuna le porte dell'internet sono infinite, le strade dell'internet. Le strade dell'internet ci hanno portato in diversi buchi neri di conoscenza. Sì, la preparazione di questa puntata è stato un viaggio in vari tunnel, castelli, sfarzo, vari lenzuola d'oro. Ne saprete di più dopo. Però a un certo punto siamo ingappati in un tunnel un po' meno delirante, un po' più analitico, che ci ha regalato questa definizione di lusso sotto queste... cioè una tesi di laurea addirittura, ragazzi, una tesi di laurea sul lusso della... non ci interessa l'università, non a caso un'università privata. No, non menzioniamo, non facciamo nomi. Non facciamo nomi. Solo abbiamo... gli infami fanno nomi. Ce lo teniamo per noi. La definizione di lusso viene definita secondo quattro differenti accezioni, leggo testualmente: uno, rassicurante; due, aristocratico; accessibile e imbarazzante. Oddio. Ah. Attenzione. Il bello arriva sempre in fondo comunque in queste definizioni, no? Ti spiazzano. Imbarazzo. Il lusso imbarazzante. Che lusso significherà? Imbarazzante. Ma partiamo, cominciamo dall'inizio, va. Ma imbarazzante per chi poi? A proposito. Che viene messo in imbarazzo dal lusso imbarazzante. Magari sei tu che ti imbarazzi a vedere il lusso. O sei tu che sei imbarazzante. Esatto. No, perché sei povero. O imbarazzante chi lo stenta. Io direi imbarazzante chi lo stenta. Cioè, come quando sei in imbarazzo per gli altri, cioè che sei in imbarazzo per una persona e vorresti sotterrarti a posto suo. È, no? Il cringe, il famoso cringe. Il cringe. Il cringe. Sto provando sempre più spesso, andando in giro per strada, comunque, questo sentimento di lusso imbarazzante, di cringe in generale. Vabbè, siamo in o mi sta chiamando Palmiro, non so. Lo mettiamo in diretta. Palmiro è lussuoso? Chi è? Palmiro, ci senti? Sei in diretta? Siamo in diretta, non ti senti? Non ti senti, allora prova a rifresciare. Sei in diretta? Palmi, sei già in diretta, Palmi. Ti sentiamo. In diretta. Parlategli. Sì, sì. Ehi, tu ci senti? Ti sentiamo. Dacci segni di vita. Pronto. Volevi essere qua per caso? Volevo? Volevi essere qua? Sei sempre con noi. Sì, con voi stasera, ragazza. Come l'avete chiamata? L'arte del Patrizio, mi hanno detto i miei servizi segreti. Quello sì, che sì, sei informato. Sta arrivando col Porsche, Palmi. Ha delle inner news. La struttura radiale che ho messo su con il dottore e il reverendo. No, cercavo in realtà di ascoltarvi. Preoccupato, vi ho chiamato direttamente in studio perché non riesco ad ascoltare la diretta. Problemi tecnici? Problemi mi sembra tecnici. Che voi non siate in onda. Ma sei oddio. Per... Ah, questo potrebbe essere interessante. Vabbè. Sì. Grazie, Palmi. Questo è il bello della diretta. Che non sia in diretta. Come non esserci. Il brutto. La diretta a volte... Va buono, allora ogni tanto vi chiamerò per insomma darvi specifiche tecniche e dirvi come sta andando la vostra non diretta. Ok. Ah, grazie. L'indiretta. I nostri impotenti mezzi ci dicono che lo siamo, però stica. Tra l'altro. Questa è Meta Radio. Volete sapere insomma cosa avete programmato per oggi, che argomento e come lo state affrontando in merito? Beh, bastava che andassi su radiowombat.net. Vabbè, no, lo vuoi sapere da me. Va bene. Chi vuole fare un riassunto per Palmiro? Allora, a vedere se siete in onda. Palmiro si è introdotto un attimo a livello teorico il concetto di lusso. Ah, ok. E appunto Gengè riassumi le quattro categorie appena dette. C'è questa meravigliosa tesi di laurea che indaga il senso del lusso, che ci dice che il lusso può essere rassicurante, non lo so, però il lusso può essere rassicurante, aristocratico, accessibile o imbarazzante. Ecco. Wow, quindi cioè, vedo che state cercando di derubricare in maniera molto costruttiva e a critica, diciamo, la questione del lusso. Va bene, mi fa piacere, ragazzi. Grazie per il supporto. No, non devo dirvi che sono dispiaciuto di non essere lì con voi, ecco. A parte che ora proverò a riascoltarvi, a rimettervi se siete davvero in onda, però... Sì, Streampunk dice che lo siamo, Palmi. Ok, allora è il mio Windows XP. Ritenta, sarei più fortunato. Windows XP più male. Avete anche la segreteria telefonica umana ora in diretta. Sì. No, vabbè, chiamaci tra un quarto d'ora, va. Va bene, vi richiamerò fra un quarto d'ora se non sono a mangiare cece e cipolle. Dai. Va bene. Buono. Dai, buono, salutiamo. Tieni un po'. No, qual è il tuo lusso, Palmi? Il mio lusso? Sì. Il mio lusso sarebbe avere una fonte d'acqua potabile a casa, ecco. Soprattutto d'estate, quando c'è la siccità. Ma sarebbe il mio lusso. Guarda, mi spiace, ma si era detto che il lusso sono solo cose superflue, quindi caschi male, non va bene. Albus, chissà come mai io e te siamo sempre così, diciamo, in disaccordo, quantomeno non si è mai avuta una disquisizione costruttiva, ecco, in merito. Ma guarda, in realtà sei in disaccordo con la Treccani, quindi fai un po' tu, Palmizio, mandagli una mail. La Treccani non sta né in cielo né in terra, comunque va bene, no, siete dei privilegiati, frittole, siete dei privilegiati, capito io? Noi stiamo riportiamo le fonti. C'avete i filosofi, c'avete i tecnici, c'avete anche i puntigliosi, quindi non posso dire. Dai, ragazzi, buon divertimento, vi ascolterò con tanto piacere. Grazie Palmi, grazie. Facciamo l'appello alle autorità, portate l'acqua a casa di Palmiro. Palmizio per l'arte del... Oh, tienimi un piatto, Non arriverà mai, perché spero che le autorità comunque sappiano non sappiano dove abito. Ok, ecco. Allora non lo diremo. No. Ciao Palmi, un bacione. Preferirò restare senza, preferirò restare senza acqua piuttosto che avere le autorità in casa. Un bacione, ragazzi. E così ci lascia. Ciao Palmizio. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Dos piernas, dos patas, blancas o mulatas, te llevan donde quieres si tú no las retienes. Un dedo, una uña, un zapato con cuña, no corras como Lola, ardo a la española. Caminante son tus huellas, el camino no nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Comunque è una presa di posizione netta quella del Palmiro, o piuttosto resto senza acqua. Beh, condivisibile. Condivisibile. Sì. E comunque l'ha definita come un bene di lusso, quindi ha detto piuttosto rinuncio al lusso. Beh, prima si parlava dei villaggi africani senza acqua, ma non bisogna andare troppo così lontano per trovare evidentemente no. L'acqua come lusso, no? Basta andare a casa del Palmizio. Poi non sappiamo dov'è, ma vogliamo dirlo. Quindi vabbè, dai, andiamo avanti con queste categorie. Sì, le categorie appunto sono legate, questa cosa dell'acqua, è perché il lusso in realtà è legato anche a una questione di classe. E il lusso rassicurante, aristocratico, qua ci dice la nostra tesi, che è legato all'appartenenza a uno stato sociale e a una determinata classe con acquisto di beni, quindi questa corrispondenza fra l'acquisto di beni e beni accessibili e la classe di appartenenza, quindi il lusso come qualcosa di appartenente a una specifica classe. No, ma in che senso? Cioè che i ricchi di merda possono. E New Kent. E i nobili. E i peones no. A ogni classe corrisponde un determinato livello di lusso accessibile. Tipo la carrozza, la servitù. E questo un tempo, sì. Adesso magari le casone, i rifugi, i bunker limousine. O se sei una della classe sociale palmizia, l'acqua. L'acqua. Ah, chiaro, chiaro. È sempre qualcosa al di là che non ti puoi permettere. È un po' la linea. Potresti permettere. La linea di confine tra la tua classe e quella successiva. Ah, quindi il lusso come limite, come lusso serie come di limiti, una sorta di escalation, no? Una dove la classe di sotto prende le cose della classe di sopra non potendosele permettere, mediamente indebitandosi per comprare la macchina nuova o sì, scialando di brutto, scialando di brusso. Beh, c'è gente che chiede prestiti davvero per il lusso. Mi ricordo un amico che lavorava in uno di questi istituti di credito che davano anche piccoli prestiti. Dice, quando sono entrato mi stupivo della gente che mi chiedeva il prestito per comprarmi un televisore nuovo. Adesso mi stupisco quando mi arriva quella per le vacanze, il centro estetico, cose ancora più superflue, perché c'erano nella definizione. Effettivamente si indebita pur di. Si indebita per andare in vacanza. Sì, interessante, no? Come aspetto, cioè vai in vacanza per rilassarti, ma non sei rilassato perché hai fatto un debito. Certo. È contraddittorio, è come non lo so, è come lavorare per drogarsi e poi drogarsi per lavorare, cioè un tipo di loop, no? E sì, questa cosa lì. In realtà è legata alla quarta definizione, perché dice il lusso imbarazzante è il paradigma dell'ostentazione tramite il quale vi è un tentativo di appartenenza ad uno strato sociale più elevato. Quindi esatto, più elevato. Cercare di arrivare a qualcosa che non puoi, in realtà, non corrisponde alle tue condizioni materiali. O cognitive a volte. In che senso? Che senso? Scusa. No, mi viene da pensare al buon gusto. Ah, certo, sì, è vero. Pacchiano. Soggettivo. Sì. Mica tanto, se ne parlava prima la differenza fra come era il boss mafioso e gli Agnelli, che sono dei criminali anche gli Agnelli, non vogliamo sostenere però che gli Agnelli sono brave persone, i boss mafiosi no, assolutamente, però comunque hanno sempre espresso il buon gusto della classe dominante, ecco, è proprio invece direi proprio un fatto sociale, e che le abilità cognitive, diciamo, per capire cosa gusto e cosa no, ti viene appunto all'appartenenza a un certo tipo di famiglia, ecco. Sì, o a un certo tipo di non per sociale, forza comunque. Cioè più a un retaggio quantomeno, sì. Sì, poi ci può essere il brillante, esatto, no, il nuovo arrivato della, però comunque sono, comunque si inserisce sempre un contesto prodotto comunque da quel tipo di retaggio lì, mm-hmm. Senti, a proposito di questo connubio, perché giusto perché hai nominato, vabbè io farei uno stacchetto musicale un secondo, proprio un minuto, poi rientriamo, dai. Yo. Yeah. That boy D, vamos al banco. No, con gente fa questo. That boy D, vamos alla banca. Che stasera beva troppo mentre pensa di mano. Due cassette tenga clock a fianco con da bancare. Mano la cassa è lontana, non piglio 3G. Con una tipa che mi spoglie senza manca su in mano. Vamos alla playa con la plata nella Gucci. Mi dice che sei bueno mentre leva cinta Gucci. Trappo con Maceni mentre girano Cristiano. Ogni piazza viene a hit, già da Napoli a Milano. Che gallo ancora vede per di sorda che conta. Siamo numero e tagliamo quando chi le sa dorme. Spengo troppo a 10 anni, forza ma mori fam. Che se mi manna posizione, lo giuro non saccio un nome. Tengo un frate criminale, nata figlia in un boss. Io sono intoccabile a secondigliana come Narcos. Ma piglia innamorata chi su scema e va in depressione. Non tocco manca e parla solo tre me posso far rosso. Vestuto bianco che ci abbatta così che la cubana. Nacio vista miei cartoon solo like l'oceano. Tengo un frate sta buona colombiana. E nato frate tenu pata canza con de reata. Che stasera beva troppo mentre pensa di mano. Due cassette tenga clock a fianco con da bancare. Mano la cassa è lontana, non piglio 3G. Con una tipa che mi spoglie senza manca su in mano. Vamos alla playa con la plata nella Gucci. Mi dice che sei bueno mentre leva cinta Gucci. Trappo con Maceni mentre girano Cristiano. Ogni piezza viene a hit, già da Napoli a Milano. Devi soldare sotto te, rossa che carta fa muffa. Catti preti in un milione, chiudo l'ende casciun. Sotto i terre contadini stanno sparsi milioni. Castani morta che ti parlano, chiuso in demon. Fri casciani ma solo a tutto, ma non si vende a mano. Inganna capi nulli con una casa e soldi cavale. Tatuato marchi fabbrica in due scandinate. Con le bose te nervoso, noi che capi scoppiate. Tenga una che bianca ballata proprio con mia bamba. Tu che parla soltanto santo. Sì, io chiederei un attimo alla nostra cara Gen J di spiegarci un po', per chi non avesse capito di cosa parlava questa canzone. La traduzione live. Sì. Questa canzone è un po' un esempio di quella roba lì, dell'ostentazione della ricchezza, del lusso come strumento di affermazione sociale e del potere, che è tipico della mafia. Nel caso specifico, questa è proprio estetica camorrista del i miei soldi sono la, indicano dove sono a livello sociale, il mio potere, quindi tengo i calli sulle mani per tutti i soldi che ho contato. E me ne vado lontano con la plata nella Gucci perché sono arrivato. Sì, per me non era troppo d'accordo sul fatto che il buon gusto è, cioè, persone che sono molto ricche hanno cose molto belle e vuoi dire che è un buon gusto. Per me è molto differente di avere un buon gusto e avere cose caro, che può essere anche cose molto che fa schifo da vedere, però perché si chiama, perché sono uscita di una firma molto famosa o perché hanno questo nome, diventano belle, tra virgolette, per questo tipo di gente, però non è buon gusto per me. Eh no, non l'ha fatto. No, ma è giustissimo. Sì, si parlava appunto dei mafiosi che magari sono diventati ricchi molto in fretta, però non si può, cioè, comprano cose molto costose per farsi vedere, però a volte cozza tutto, cioè non è bello. Sì. E mi viene in mente anche solo degli articoli di ville sequestrate alla mafia, la camorra, e dentro ci hanno trovato di tutto, ma cioè delle foto pacchianissime, da troni d'oro, diamanti, tigri nelle gabbie. Oh. Cioè, può avere un fascino chiaramente, però il buon gusto è un'altra cosa. È un'altra cosa, sì. Cioè, è molto strano per me che una cosa è più importante di avere un nome che una cosa che è bella. Beh, forse loro piacciono così. Cioè, sì. Poi anche dando un nome il valore aumenta. Sì. Tu puoi avere una scarpa fatta a mano, fatta benissimo, da un artigiano sconosciuto, e avrà un valore alto perché il materiale per farla, le ore di lavoro, la passione, la bravura, e la portano a un prezzo elevato. Però una scarpa fatta magari con gli stessi materiali buoni, con una firmata da una qualsiasi casa di moda riconosciuta, e ha un valore di 100 volte tanto. Sì. E quello è un lusso o no? Dipende di cosa cerchi, penso. Cioè, se tu cerchi una forma di reconnaissance dagli altri, o si cerca un certo conforto di vita, non lo so come dire. Sì, c'è questi due aspetti, no? Il lusso come appunto ostentazione, quindi come ricerca o dell'affermazione o del riconoscimento sociale, e l'aspetto, mi verrebbe a dire, puramente soggettivo del lusso, no? Cioè, mi concedo il lusso di fare o non fare qualcosa, ok? Infatti rilanciamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici l'entità all'ascolto, e cos'è per voi il vostro lusso, i lussi che vi concedete, e scriveteci. E io la farei anche ai presenti questa domanda, allora, direttamente, andiamo nel merito. Che cos'è per voi il lusso? Anzi, forse, quali sono le vostre, i vostri desideri di lusso nell'eccezione comune di lusso, quindi quello che nella nostra società viene definito lusso, se avete qualcosa che, a cui magari anche in modo nascosto vorreste aspirare o vi piacerebbe possedere. Beh, tenendomi alla definizione, comincio io, per me è un lusso anche solo andare a mangiare fuori, può andare a mangiare pesce. No. Bravo, guarda, stai pensando esattamente la stessa cosa. Andare a mangiare fuori, secondo me, è uno dei lussi che mi concedo più volentieri nella vita. Sì, non c'ho i soldi per andare a mangiare fuori spesso, e quando me lo concedo è un lusso. So che sto spendendo, e magari potrei mangiare anche meglio se la cucinassi io quella cosa lì. Però anche solo sedersi, farsi servire e non dover, esatto, sparecchiare, lavare, cioè, e lo penso esattamente allo stesso modo. Penso che anche il lusso per me è, cioè, di un modo un po' saggio di essere, cioè, vivendo in questo paese, che non posso fare più o meno tutto quello che vuoi. Ho anche momenti che possono diventare un lusso, cioè un momento di felicità o di bonheur. Buon umore. Di felicità. Sì, di benessere. Felicità. Sì, benessere. Di questo momento che è unico, che può diventare un lusso anche. Verissimo. Beh, io direi che è anche un diritto fondamentale. Essere... Sì. Viversi la vita bene. Sì, ma poi dipende dai momenti, possono diventare lussoso questi momenti. È un diritto fondamentale viversi la vita bene, ma effettivamente per tante persone vivere la vita bene è un lusso, nel senso, sì, che è qualcosa... Comunque secondo me da queste cose esce fuori che comunque il lusso è qualcosa che non possiamo avere sempre. A prescindere da se quanto ci fa bene, però è qualcosa che sì, ha a che fare un po' con la scarsità. Sì, peccato con l'eccezionalità del momento, della cosa, no? È come diceva Wikipedia, alla fine è... bisogna di lavorare su una cosa per avere questo lusso, anche se non è una cosa con soldi. Cioè resta in riferimento a quello che non hai. Cioè si riesce a definire solo guardando quello che non hai, fondamentalmente. Dipende, però secondo per noi, me per noi poveri. Beh, ma però riconoscere il lusso nelle cose che hai già. Grande lezione di saggezza. Questo stravolgerebbe la definizione di lusso. E stravolgiamola. No, però l'esasperazione del lusso, sia a livello individuale che a livello collettivo, spesso porta a delle catastrofi comunque. Cioè dalla persona, dall'individuo che spende tutto in lusso e alla fine si trova senza un centesimo, e agli stati o gli imperi che nel passato hanno promosso il lusso o le cui classi dominanti si sono lasciate affascinare oltre ogni limite, andare alla deriva, è stato un indice di decadenza. E tu pensi che alla fine che il lusso abusivo diventa una cosa, cioè, lusso eccessivo? Sì, diventa una cosa, cioè, più che inutile, dannosa. Sì. Sì. Che non ha senso. Sì, che non ha senso ed è un... Ma che porta al disastro proprio. Sì, è un sintomo del... Lusso apocalittico. Esatto. È una malattia. Grazie, mamma. Sì, sì. Andate su not.nereditions.com. Ma può diventare una, cioè, tipo, sì, una malattia di la voglia di comprare sempre di più caro, sempre di più bello. Sì, sì, è come tornando all'esempio delle macchine, la gente che si indebita per comprare la macchina nuova, però 4 anni dopo si ritrova a rifarlo per avere la macchina ancora nuova. Vuoi un pezzo riguardo una macchina? Vai, spara. Io c'ho la macchina. Da quando c'ho macchina, tutte le fighe vogliono il mio cazzo perché sono bello, il mio cazzo perché faccio coso. Io guido le loro fighe come autobus, io guido mini come minibus. Tutte le mie fighe mi chiedono passaggio, io le chiedo un pompino. In autostrada le mi spompa, in autostrada le mi tocca. Le mi dice a chi ora arriva, le mi dice a chi ora mi dà. Tutte le mie fighe. Beh, ci dissociamo comunque. Era un po' sessista quel pezzo, no? No. Io c'ho la patente. Quindi... Vabbè, è il lusso di bello figo. Lui è bello figo. È la sua definizione di lusso. Anche la macchina per imbloccare. Ma anche per me, è la sua definizione di lusso. Solo che non anche tutti se la possono permettere. In anche effetti, lì c'è chi ha il pandino e c'è chi ha la Lexus. Beh, in effetti, c'è chi può e chi non può. Lui può. Ma secondo me anche col pandino ormai. Guarda, fascino vintage. Il fascino vintage vince sempre. Beh, per me sarebbe un lusso avere la macchina, oggettivamente. Ah sì. Però vabbè, si apre tutta una parentesi sul fatto che dopo tutto sto scegliendo di non averla. Però la desidereresti. Ti indebiteresti mai? No, assolutamente no. Non esiste. E quindi cos'è per te il lusso? Quindi io vado più. Questa musica in sottofondo. Intervengo. Sì, che poi in sottofondo sembra, non lo so, una cosa completamente diversa. Così. Tipo un canto tradizionale tirolese. Tirolese. Invece. No, io non sono ancora pronto a rispondere a questa domanda. Forse Albus voleva intervenire. Ma sì, così a gamba tesa, a lusso, i genitori che ti prestano la macchina. Ehi. Quindi lusso è una famiglia funzionale, non disfunzionale. Che ti presta la macchina, chiaro. Vabbè, sta finendo sto pezzo. Non so quale. Beh, mi sembrano molto low budget questi lussi qua in regia, eh. Beh, io confesso proprio un guilty pleasure a tutti gli effetti. Io ho il guilty pleasure delle scarpe di lusso. Eccoci all'acqua. Le scarpe e le borse. Cioè, scarpe. In generale i vestiti di lusso esercitano un fascino incredibile su di me. Ne hai? Alcuni. Sì. Ho anche speso molti soldi in alcuni momenti della mia vita per avere degli oggetti di lusso. No, ecco, un abito di sartoria in effetti è un lusso che mi vorrei concedere, cioè avere un abito veramente, veramente serio. Hai speso un millino, una cosa del genere. Non lusso fatto... di buon gusto comunque. Sì, sì, di sartoria appunto, una roba fatta su misura, artigianale, ecco. Tipo il burka di Gucci. Tipo il burka di Gucci. Ma quello non è artigianale, è solo firmato. È stato comprato su una bancarella. Piazzato però... una stampa sopra. Vabbè, visto che sono le 8:08, mandiamo il burka di Gucci. Mi sembra siete giusto. D'accordo. 88. Vai. Voglio il burka di Gucci, tata Nasir Mazar, la borsa di Pucci, vestita HBA, una Audi A4, la mia voracità, solo un'altra botta, tra me la felicità. Una ragazza, casecchietta, sotto cassa, ma discreta, tutta fatta, fatta in casa, una striscia che mi gasa. Quando striscio la mia visa, io Vuitton, tu Carpisa. E da quando sono evasa, il mio burka, una divisa. La regina di Long Island, conte svizzera le Cayman. Col cash e le modelle, mio salone si stringe le mie sorelle. La diretta su Jazeera, un duetto con Shakira. Io Obama con la bamba, arrivo con il jet, la casa si fa bianca. Voglio il burka di Gucci, tata al Nasir Mazar, la borsa di Pucci, vestita HBA, una Audi A4, la mia voracità, solo un'altra botta, tra me la felicità. Burka di Gucci, voglio il burka di Gucci, burka di Gucci, stampe di Pucci, voglio stampe di Pucci, stampe di Pucci, jeans Fiorucci, voglio jeans Fiorucci, mille Carlucci, come mille Carlucci, mille Carlucci. Vado all'Expo, busco sexo, cash in mano, solo escort, scatto in quinta, Wendy Windham, tiro sotto, Anna Winta, me ne foto della crisi, il mio uomo è dentro l'Isis, sempre single mamma e sola, da mille vole si vola. Bank 747, prima classe Emirates, pensi ancora alle mie tette, io penso ai cazzi miei. Una Audi A4, la mia necessità, solo un'altra lotta, tra me la felicità. Burka di Gucci, voglio il burka di Gucci, burka di Gucci, stampe di Pucci, voglio stampe di Pucci, stampe di Pucci, jeans Fiorucci, voglio jeans Fiorucci, jeans Fiorucci, mille Carlucci, come mille Carlucci, mille Carlucci. Burka. Allora, qui nel fuori onda c'era Gen.J che ci aveva estratto un altro pezzettino dalla tesi, dalla nostra tesi di riferimento. La tesi. Tra l'altro un salutone a Amati Gianluca che l'ha fatta. Amati Gianluca, bravo. Ma non avevamo detto che non facevamo nomi. Addio. No, ma siamo degli infami, no, vabbè, chiudiamo tutto. Scusate, ma ho rovinato ogni cosa. Sei proprio un infame. Ma veramente. Beh, adesso che l'abbiamo nominato, possiamo quantomeno cercare di rendergli un minimo merito. Dai Gianlu, che ci dice Gianlu? Gianlu ci dice, un po' legato al discorso che si faceva qualche canzone e deriva fa, riguardo all'insaziabilità dei desideri, cita Epicuro, la filosofia epicurea che distingue i bisogni e definisce i bisogni non naturali né necessari, come ad esempio il desiderio di gloria e ricchezza, come dei bisogni che non hanno limite e quindi non potranno mai essere soddisfatti. Mai esauditi veramente, mai soddisfatti. No, perché c'è sempre un gradino leggermente più sopra che puoi sempre aspirare a raggiungere, quindi non finisci mai. Un po' come il potere. Però non mi sembra che i desideri necessari, i bisogni, ora non voglio... come dire, mettermi più di tanto contro i figurio, però insomma anche i bisogni necessari come dire, devono essere alimentati in continuazione, cioè non è che il mio bisogno di acqua a un certo punto finisce, sì, perché è necessario, però non puoi berti più di 5 litri d'acqua al giorno, cioè no. Se lo fai stai male, è vero, esatto. È vero. Cioè, nel senso, hanno un limite. La cosa che dice sì, che certo. Non hanno un limite perché non sono reali, non sono esistenti nel senso di necessari. Non hai bisogno realmente di quella bisogni cosa. I necessari hanno sempre un limite, che è il limite della necessità. Quando non hai più necessità d'acqua, sì, che te ne fai di 50 appartamenti. Invece, se sei 4, un broker, 5. Se sei un broker e hai ogni anno sempre più miliardi da investire, puoi fare dei danni proporzionalmente irreversibili, come cementificare o investire in attività distruttive, solo per un vezzo, non dico per costruire un'autostrada, ma un castello, ad esempio. Vabbè, un salutone a Jeff Bezos, a Elon Musk, tutti i bravi che ci stanno ascoltando. Sicuramente. Investite bene. Dateci i soldi. Esatto, dateci i soldi. Ah, così sta finendo. Cliccate sulla pagina di soldi. Il nostro dirty pleasure è che Bezos, anzi Elon Musk, ha visto va su Radio Wombat e dice: ma questi ragazzi adesso gli do un asset. Una milionata. Un asset in the face. In the face. Una miliardata, veramente speech. Sì, ma poi... miliardata ci si ma voi sapreste come spenderli? Cioè, prima si parlava di arricchimento improvviso, un milione di buon sì. Gusto. Secondo me un milione sì, un miliardo no. Un milione saprei come penso che mi potrei inventare qualcosa. Un miliardo iniziasse veramente una cifra da capogiro. Posso fare una domanda alla pomeriggio 5? Se avreste un milione di euro, come lo spendereste? Cioè, capito, lì ti prendi una bella casa, una bella macchina, cioè non ci compri neanche l'elicottero, uè. Sì. Un milione va via subito in realtà. Un milioncino va via subito. Scusatemi, sono povera. Io forse un milioncino di elicottero ce l'ho bene, sì, forse un elicotterino. Uno da poveri sicuro. Vogliamo vedere elicotteri su subito.it. Dipende dalla domotica, cioè se la villa ce l'hai tutta con la domotica, lì ti partono già. No, ma che domotica, io voglio i domestici, non la domotica. Che cazzo, voglio persone in carne e ossa, mi servono. E i robot, cioè i robot se li possono mettere in, no? Insomma, siamo, cioè, vabbè, comunque un milione è poco, cioè siamo arrivati a questa conclusione fondamentalmente. Per sognare sì, lusso. Ormai per sognare sì, magari 10 anni fa non lo era, oggi, sempre tornando al discorso del che non c'è mai fine, oggi un milione è diventato già poco, cioè non sei più ricco se hai un milione, cioè sì, lo sei, sì. Se lo compari a noi che viviamo con qualche millino all'anno racimolato così colà, ma cioè, per sembrare ricco, per ostentare la propria ricchezza, Cioè, cosa ci fai? Ci compri una casa bella con la piscina, magari a 1 milione e basta. Ma forse per preparare questa puntata ci sarebbe servito l'ausilio anche di uno statista, perché cioè in tutto questo vi ricordate, no, il famoso passaggio dell'1%, no, che detengono una percentuale abnorme di ricchezza mondiale. Cioè sarebbe veramente carino quanto questa ricchezza è ricca. Suddivisa? Sì, il classico articolo che trovi su Internazionale, capito? Delle diseguaglianze. Le 10 persone più ricche del mondo. No, sì. No, l'1%, cioè che ci fanno con 1 milione? Nulla. Senza contare che stanno aumentando. Cioè, ascoltavo tempo fa un podcast dedicato alla Cina e veniva fuori tutta una nuova casta di miliardari cinesi che fino a poco tempo fa non esisteva. E tutti i paesi che stanno esplodendo a livello industriale ed economico adesso stanno sfornando miliardari. Ma tutti questi miliardari cinesi, ma le case, io vorrei sapere come ce l'hanno, che case si costruiscono. Oggi non ce l'abbiamo il miliardario cinese, ce l'abbiamo il miliardario americano. E oggi si fa cose molto molto incredibili. Tipo, in particolare in Stati Uniti, che loro piacciono tanto ancora questi castelli di Francia, Versailles. Perché non ce li hanno mai avuti. Scusa? Loro, gli americani, non ce li hanno mai avuti. È un po' invidia. Sì. E quindi li ricostruiscono. Sì, pezzi. E te, Bright, sei stata a visitarne uno? Raccontaci un po'. Allora, sì, entriamo dentro una di queste case che sono castelli alla fine. Che cioè, già per arrivare al corridoio, tu metti un po' per arrivare. Poi c'è questa porta enorme dove c'è tipo tante foglie di oro. Oro 22 carat, una cosa. 22 carati? Sì, ogni, beh, carta ogni da parati, insomma. Proprio. Carta da carati. No, ma già con questo tu puoi fare tante cose, gente come noi. Poi con un corridoio. Poi arriva, c'è questa fontana enorme, dietro della casa c'è una cascata, una piscina. E tu poi quando sei dentro la piscina alla la landscape sul mare Poi tu entro dentro, c'è spazio enorme dove c'è solamente una tavola, però questo spazio è inutilizzato. Sì, ma anche la tavola è inutilizzato, tutto di marmo che viene dall'Italia. Marmo di Carrara? Sì, forse sì. Poi c'è questo colore bianco, rosso, nero, che sono un po' dappertutto, un po' è lussuoso. Poi c'è tappeti giganteschi, statue enormi di granito di Zimbabwe, che costano anche tanto. Arte, c'è tableau enorme anche. Ma quante stanze ha questa casa? È quello. La maggiorità di queste case sono abitate da 2-3 persone, cioè una piccola famiglia. Che però passano la metà del loro tempo a cercarsi fra le stanze. Esattamente, perché queste case fanno tipo 5.000 metri quadrati, c'è più di 11 camere. Solamente camere, sono solamente in 3. Si può chiedere perché hanno bisogno di un spazio così, cosa fanno dentro queste case vuote. Magari invitano un sacco di gente. C'è anche le salotto. C'è, ma anche come si spostano? Collezionano aria. Sì, cioè, avranno dei motorini elettrici per spostarsi. I monopatti, no? Monopatti. 5.000 metri quadri, cioè. Ma più che altro, come le scaldi? Ma quello non è una questione, non è un problema per loro, perché è un problema comunque per tutti gli altri, però le prese sono, perché si devo dire che queste case, questa gente non vive troppo dentro. Anche uno appena non ha vissuto dentro l'ha venduto subito per un prezzo che 135 milioni di dollari. un'altra tipo 102 milioni di dollari. Sono. Vedi? Visto. Con un milione non ci fai un cazzo. Non ci fai niente. No, niente. Non è vero. Se ci vuole un miliardo per avere 5 di queste case. Sì, e mantenerle. Esatto. Cioè la piscina, il filtro. Un miliardino si fa stretto, Il biliardino. Devi comprare. Biliardino per il biliardino d'oro. Devi ungere il biliardino. Devi ungerlo con l'olio di Trevi. Ma c'era una casa che non si poteva calcolare, no? Sì, anche sì, perché dopo con tutti gli oggetti dentro, tutte, non si può più calcolare, non si può più vendere anche, cioè, no, è incredibile che queste cose esistano ancora, che gente comprano queste case quando c'è l'altra parte del mondo che non hanno anche... Non hanno neanche una casa. In tutto questo l'Oxfam ci dice che l'1% che trattiene il 50% della ricchezza mondiale è le emissioni dei più ricchi d'Europa, che sono la causa della maggior parte delle emissioni del mondo, e la loro ricchezza spropositata aumentano negli ultimi decenni. Quindi il lusso inquina. La voix de Gonzaga che le orecchie avvalgono come dei comprimé, venom e cascadeur. Ma quindi, cioè, bisogna vivere nell'austerità perché il lusso è immorale, oppure abbiamo bisogno di un diverso concetto di lusso? La questione è proprio questa, Imam, grazie. L'autogestione del lusso. Cioè, intanto ridurre le nostre aspettative. Intanto grazie per questa canzone magnifica. Ci fa volare. Le bonheur. Mais je sais que je vais mourir riche. Oh, je vais gagner l'argent. J'aurai beaucoup d'argent. Je ne peux pas mourir galère na wari chama soro. J'aurai beaucoup d'argent. Insomma, autogestione del lusso. Ci ha risposto qualcuno? Non ancora? No, tutto tace stasera. Tutto tace. Ahimè. Forse perché non abbiamo aperto la mail. Forse perché non siamo in onda. Forse dovrebbe chiamarci di nuovo. Ma Palmiro ha più chiamato, no? No, allora siamo in onda. Siamo in onda ufficialmente. Vabbè, se non ci volete scrivere sul pad perché è difficile da trovare, potete scriverci. Dici tu, tanto non ci stanno ascoltando. Sì, tanto. La mail è frittole@gattini.ninja. E vabbè, la buttiamo qua. Quindi la domanda del buon Imam possiamo ripeterla, perché mi pare un punto focale di tutta questa discussione. Cioè, allora, abbiamo visto che appunto il lusso inquina, il lusso come viene concepito oggi è immorale, è sbagliato politicamente, ingiusto, mettiamola come vogliamo. Insomma, comunque da condannare, da rifiutare. Allora, quindi di cosa c'è bisogno? C'è bisogno di abbandonare il lusso in favore dell'austerità? Oppure abbiamo bisogno di un diverso concetto di lusso, perché in fondo il lusso non è così non necessario, ma invece c'è bisogno di concedersi dei lussi nella vita. Cioè, austerità o lusso diverso? Ma in realtà potrebbe anche essere... No, vabbè. Ma la seconda opzione è interessante. Però se tu parti da un punto di vista che ogni persona ha il suo livello di bisogno, forse non cambia niente, perché la gente che hanno questi soldi vanno a continuare a usare così, no? Sì, anche perché mica tutti i ricchi o gli sfruttatori spendono i loro soldi nel lusso, c'è anche questo, ci sono proprio gli avari, no? C'è quello e gli Scrooge della situazione. C'è chi spende in ricerca anche. C'è chi spende in ricerca, cioè... C'è chi si indebita per spendere. Ma appunto, cioè, non è detto che chi Però secondo me la questione dell'austerità o del diverso lusso in realtà no, è centrale, so. È centrale. È centrale, però forse in realtà la soluzione è una sola, cioè che l'austerità ti porta a un diverso concetto di lusso. Sì. Cioè un sì. certo tipo di ridimensionare quantomeno. Ridimensionare, esatto, il proprio, le proprie modalità di vita. Io venendo qua a Mondeggi me ne sono reso conto. Bella. Beh, cioè la convivenza con la scarsità ti porta a percepire in maniera più frequente la ricchezza. No, comunque il fatto del ridimensionare si può benissimo affrontare guardando dentro di noi quello che ci fa stare bene. Detto proprio in un italiano scorretto. Fricchetto. No, per esempio. Fricchetto. Cioè, appunto, tu non hai ancora risposto, reverendo, a quella è il tuo lusso. Vero. I beni immobili. Però anche lì, cioè, il mio lusso era andare a mangiare fuori, chiaramente, il mio lusso non è andare a mangiare fuori in un ristorante stellato e spendere 300 euro a persona. Il mio lusso è andarmi a mangiare una frittura, che ne so, a Livorno, e spendere 15 euro e mangiare come un disperato, capito? Quello è il mio lusso. Cioè, anche lì, viva la frittura! Ogni cosa è ridimensionabile. Cioè, avere una jacuzzi da mille migliaia di euro con tutta una piscina che ci sta attorno solo per me e per i miei pochi invitati, oppure andare alle terme. Ah, è vero, dicevi che spesso Petriolo ti attrae. Petriolo è un mio guilty pleasure. Guilty non perché, cioè, perché spendo benzina o gasolio per andare lì, comunque dirci sì, io vado a godermi un lusso, però ho il privilegio di avere un mezzo che mi fa arrivare fino a lì e spendo delle tasse e tutto quanto. Adesso stiamo andando proprio radicalmente a contestare tutto quello che sta alla base del godersi la vita. Sì, è un po' estremo se stiamo parlando di lusso, cioè stiamo parlando di cose molto più essenziali. Però com'è che l'avevi chiamato, Imam? Non l'austerità. L'austerità, sì. L'austerità non è una soluzione, secondo me. Cioè, lo è se è una scelta individuale. Perché molto spesso nel passato si è cercato di limitare il lusso, cioè, se solo penso o di renderlo un crimine, se solo penso all'Unione Sovietica. Il risultato non ha subito nessun effetto se non quello contrario, che appena hanno potuto appena è crollato il muro, ciao. Cioè, adesso abbiamo i russi con lo yacht in Sardegna, che tra l'altro ho conosciuto gente che ha lavorato sulle loro barche e mi hanno raccontato cose incredibili. Sì, però che lì il problema è che lì secondo me l'austerità era dettata dall'alto, questo è il problema. L'austerità deve essere una scelta individuale o collettiva, cioè di un modo di vita. L'austerità può voler dire tante cose, secondo me, però il privarsi, diciamo così, di tutta una serie di privilegi consumistici vuol dire anche avere proprio una modalità di vita diversa. L'Unione Sovietica di fatto vivevano la civiltà industriale come la stavamo vivendo noi in Occidente, solo con meno roba, capito? Quindi senza il piacere, esatto, senza neanche l'illusione del piacere, poi, sì. Perché poi era un piacere fittizio anche quello, però capito, potevi scegliere fra il rum e il whisky, invece lì bevevi solo vodka, capito? Però poi la logica di fondo era un po' la stessa, cioè entità terze rispetto a te ti fornivano ciò di cui avevi bisogno, ciò che volevi. Più che altro definivano ciò di cui dovevi avere bisogno. Come? Definivano ciò di cui avevi. Lo definivano attraverso questo monopolio radicale, cioè col fatto che solo un'entità terza ti poteva dare ciò di cui hai bisogno. L'austerità in questo senso, secondo me, vuol dire cioè è un concetto legato all'autonomia, in qualche modo all'autodeterminazione, perché nell'autodeterminazione non puoi produrre a quei livelli industriali quantità di prodotti e di servizi, capito? Ti devi accontentare di meno, però per potertele fare da solo le cose e sì, non fartele fare da altri, capito? Ah, sì. Per cui è chiaro che se c'è un terzo che ti eroga, se c'è l'Unione Sovietica che ti dà solo la vodka e il capitalismo occidentale che ti dà il rum, il gin, tutto quanto, una miriade di scelte, e più soldi, ok, per poterti permettere questo o quello, è tutto differenza. È chiaro che da una parte hai, per così dire, uno scenario grigio piatto da cui vabbè, già, di là c'hai gli specchietti delle allodole, ma sono in qualche modo due facce della stessa medaglia. Sono due facce del mondo industriale. Esatto, esatto. Il mondo dell'autoproduzione, cioè, il mondo dell'autoproduzione è austero, è austero, è tendenzialmente austero, però lascia lo spazio anche lì. Nel momento in cui l'autoproduzione raggiunge un livello di soddisfazione dei beni primari, c'è lo spazio per pensare, non so, mi costruisco una sauna. Ma mandiamo i P38 a proposito. Vai. Oh, vai con la P38, non ci si pensa. C'è chi non è d'accordo con tutto ciò. Ciò che accade per il fatto che suo marito era il presidente della Democrazia Cristiana, Ma in un paese democratico, in uno stato di diritto, l'essere presidente della Democrazia Cristiana non implica fatalmente il destino di essere ucciso. No, certo, però le ragioni per le quali ciò è avvenuto stanno in qualche misura nel ruolo che ciascuno di noi ha assunto. Vengo, spendo, sparo di spiriti al vento, ciacca a vento, Unione Sovietica, non sento freddo. Stalin, Calisi, quegli fabbri vi stanno uccidendo. Scalda il pezzo, lui vi ferdi sopra nel mento. Puff puff, parkour, giovane Kim Jong-un. Con la mia lady sto conta dei rubli, mentre sul mio cazzo le muove il suo booty. Spada nel braccio Excalibur, gli stringe il laccio per ZV. Brigate rosse in tour, non rendezvous, in mano il pool. Sono il muro di Berlino, dall'alto spara al pentito. Ehi, colpa la clava, capo del partito. Ehi, giovane Stalin, giovane divo. Vi mando baci prima dei reati, scusami babbi, sono il cicco cattivo. Tu non parlare se non sai sparare, la mia bambina sa usare il pugnale. Basta le guardie, tu sì che fare, vestito Prada dal fronte orientale. Voglio soltanto un piano qui, quello nelle radie per il comitato centrale. Pacchi di soldi, pasticche e collane. Ferro caldo per i premier, il piombo entra tipo Bambang. A destra bimbi dalle medie, mi faccio esplodere merda. Mamma portami indietro, sento che cedo, mi piego e trascino lo scheletro. Sparo anche se non vedo, scrivo veleno, sento gridare lo spettro. Per brigatista, bombe a Confindustria, si mi chiama terrorista, i frate son la sua puta. Entro in fretta, frati fretta, nella tua cameretta non ti salva nessuno. Faccio pezzi la tua scheletra e lo sbatto in culo. Frate sono duro, mi sembri insicuro. Mario Draghi nel cofano, 180 in curva. Lo scarico tutto sopra la pattuglia, il tuo amico mi guarda e poi urla. Guarda le fiamme bruciare la giungla, zi. Credi che sia un calembur, apro il tuo cranio sul muro. Io sono la strada che porta nel buio. Alla base di Mitri. Ma cos'è sta roba? P38 caro, sbaglio tutto, non imparo un cazzo. Sinapsi fuse dall'alcol, turbo schiaffia fusaro. Scopo nel CS, fumo gas CS. Scopo nel CS, fumo gas. Mi sparo in testa, Salvador Allende. Mi sparo in testa, bang bang. Giovane talento della scena, Beth Harmon. Sono lo scacco matto, la tua dama. Chiamo mia mamma, mica la madama. Ma meglio morto che Enrico Mentana. Buonasera. C'ho i testi in piombo, voi due ce lo fake. Trombiamo la scena, siamo i nuovi Chet Baker. La tua gang è presa bene, si però finge. Geroglifici in questura, perché faccio la sfinge. C'è la casa mia con Caio, non sai che si dice. Vedo cose strane, c'ho l'occhio di Lynch. Cuore di tenebra, snitch in scatola. Giovane pentotal, qualcosa che bolle in pentola. Cuore di tenebra, snitch in scatola. Giovane Jimmy pentotal, qualcosa che bolle in pentola. Cash, cash, cash, cash. Un po' di rabbia sociale, sana rabbia sociale. Beh, com'era Draghi nel bagagliaio, no? Nel cofano. Draghi nel cofano. Beh, questa rabbia sociale magari può derivare da una mancanza di stima. La meniamo? No, allora, perché quelli discorsi che facevamo su appunto l'autodeterminazione del lusso e quindi in qualche modo svincolare un qualche tipo di condizionamento sociale, quindi materialistico, di ciò che è lusso. Quindi nel mondo dell'autoproduzione e dell'autonomia il lusso, anche come tutto il resto, è autodeterminato. E c'è questo psicologo, sempre della nostra cara tesi, del nostro amato Gianluca Amato. Amato, ciao Gianlu. Ciao Gianlu. Ciao Gianlu, grande. Ti ho fornito l'unica fonte, minimo. Due minuti di ricerca. Il nostro intero discorso teorico di questa puntata. L'unica... L'architravel. È una grande base teorica, comunque, quella di Amati Gianluca, che ci riporta questa piramide di questo psicologo americano che si chiama Maslow, che ha fatto questa piramide dei bisogni umani, e all'ultimo step differenzia la stima, che è quella proveniente dagli altri, che porta prestigio e fama, e qualcosa di più che definisce come più alto e gratificante, che è l'autostima. Ah, cioè, quindi, la punta della piramide stai descrivendo. I due gradini finali, sì. Quelli più alla alti. Base ci sono i bisogni fisiologici, i bisogni che definisce di sicurezza, poi di appartenenza e poi di stima. Quindi anche la differenza tra appartenenza e stima, secondo me, è interessante. Cioè, appartenenza, secondo me, ha a che fare con qualcosa di condiviso, la stima o qualcosa di contrapposto, cioè perché la stima proviene dagli altri e quindi c'è un confronto. Se non è autostima. E poi c'è l'ultimo gradino più alto e gratificante, che è l'autostima, e secondo me è quel discorso lì, cioè che il lusso, se uno cerca di autodeterminarlo, deve andare a ricercarlo fra i suoi desideri autentici, che derivano dalla soddisfazione di sé, che non è derivata dal confronto con gli altri. Ah, quanta saggezza. Grazie Maus. Mi sto chiedendo se si possono distinguere le due cose, cioè se stima e autostima sono così nettamente separabili. Nettamente è difficile. No, appunto, nel senso che gli altri in qualche modo ci definiscono per quello che siamo, sin da piccoli, no? Il confronto con i genitori è quello che ci inizia a far percepire come delle persone, no? Differenti dagli altri. E quindi comunque l'autostima in qualche modo è sempre un modo di anche vedersi da fuori, cioè immaginarsi come ci vedono gli altri. Semmai il problema è sono le fonti della stima, ecco, secondo me il punto è più questo, cioè da dove ti arriva, quali sono le dinamiche che ti forniscono stima e travasano la stima in autostima, perché se ci penso... La stima di alcune persone non me ne frega niente, di altre, capito cosa voglio dire? Sì, o come ci sono anche persone che appunto incarnano questo contrasto, ovvero stimatissime dagli altri. Non so, penso a una persona famosa che magari è stimatissima dai suoi ammiratori e ammiratrici, però dentro si sente una merda, magari è la depressione totale. Ma è questo perché secondo me la fama è una trappola, la fama è la classica illusione della contemporaneità, nel senso che il famoso secondo me è la persona sola per eccellenza, perché non ha mai un rapporto uguale con gli altri, tutti lo cercano sempre. A me è capitato di incontrare di persona, che ne so, qualche rapper relativamente famoso, e magari io non lo conoscevo, non l'avevo ricollegato, era lui, non è successo un Salmo, credo, o con qualcuno del genere, e lì per lì, vabbè, mi sono presentato e niente, in qualche modo ho bucato quella che doveva essere una parete che di solito perché la gente arriva, oh grande, allora senti il pezzo, e gli parla sempre di quello, capito? E questa cosa ti isola in realtà dalle persone, non permette un contatto reale, perché magari se c'è un problema o c'è uno stato d'animo vorresti parlarne, non è quello del grande, capito, bomber, e invece, capito, devi mantenere un'immagine fittizia di te. Quindi secondo me la fama, io penso più alla stima delle persone con cui hai a che fare, i prossimi, diciamo, no? Positivamente quelli di una comunità, se uno ha il privilegio, il lusso di avere una comunità. Lusso di avere una comunità. La comunità oggi come oggi è un lusso che la gente non sospetta, non solo di, cioè, non solo non ha, ma non sospetta neanche di non avere. Ah, aspetta. No, forse solo di silenzio per elaborare le parole. Cioè, perché capito, cioè, se c'hai, non lo so, un lavoro, una famiglia, la sua vita è lavorare tutta la settimana, prendersi una pizza il venerdì con gli amici, e c'hai quei 3-4 amici che vedi, e poi il resto della tua vita è questo. Non hai una comunità di riferimento, magari c'hai due amici con cui mangiarti una pizza. Una comunità è un'altra cosa, è una struttura di persone che tendenzialmente vivono insieme, si vivono in un territorio. C'è, cioè, tutta una serie di caratteristiche. Sta diventando un lusso, dici? No, lo è di sicuro, perché la maggior parte della gente non lo ha. Ma il punto non è che non lo ha, è che non sa neanche che potrebbe averlo, capito? Cioè non capisce neanche cosa ha perso o che cosa effettivamente gli manca, cioè. Se Albus ci accompagna con un tappetino, mandiamo una registrazione, un bellissimo video del Salone del Mobile di qualche anno fa. Questo per dire, no, l'appartenenza fittizia, perché appartenenza a una classe che definisce i suoi bisogni in base ai bisogni della classe. E quindi siamo nobili, dateci le lenzuola d'oro. Te la senti? Vai, vai. Dopo anni di ricerca siamo riusciti a creare dei prodotti importanti e oggi al Salone del Mobile presentiamo queste lenzuola d'oro dell'azienda Piana Clerico di Biella, che ha sviluppato un filo d'oro particolare che ha la caratteristica di essere l'unico filo d'oro al mondo che può essere abbinato alle fibre nobili per la realizzazione di prodotti di qualità, di fascino e di valore un po' sopra la media del made in Italy tradizionale. La nostra idea era quella di creare una fascia di prodotto di lusso estremo direi, che potesse valorizzare ancora di più la capacità industriale ed artigianale del made in Italy nel settore del fashion e della moda, utilizzando delle fibre, dei metalli preziosi in abbinamento con le fibre metalli, con le fibre nobili. Ma allora, in questo caso, questo esempio che noi stiamo presentando ha il 30% di filo d'oro all'interno del prodotto e ha delle caratteristiche di morbidezza e di comfort che lo rendono assolutamente piacevole al tatto e valido per fare dei sogni d'oro, insomma. E noi crediamo di lavorare molto per questo tipo di prodotto di lusso estremo negli Emirati Arabi. Sui sogni d'oro, ritorniamo. Sogni d'oro! Insomma, siamo aperti a qualunque mercato. Noi abbiamo iniziato da poco, quindi è proprio una start-up. Ci crediamo fermamente con il signor Supa in questo progetto e crediamo di poterlo far apprezzare ai clienti. Che spettacolo! Brividi. Sogni d'oro a tutti. Sogni d'oro a tutti, davvero. Questo si può andare a letto, no, anzi. Regali. Quanto spenderà per questo Natale? 30.000. 30.000 euro di regali? Sì. Sono fortunato. Milano, in una domenica pomeriggio di shopping natalizio nelle vie del lusso della città, dove una camicetta firmata costa più di 9.000 euro e una borsa quasi 3.000, in mezzo a turisti e stranieri, ma non solo, perché tra i negozi dei marchi di moda più famosi ci sono anche italiani e milanesi disposti a spendere cifre a tre zeri. Per la signora hai fatto un bel regalo. Quanto ha speso? 2.100. 1.500 per? Cappotto e giacca e un abito. Ho speso abbastanza, alla faccia della crisi. Io sono una con le mani un po' bucate. Quanto è costata questa borsetta? 1.100 euro. Cosa regalerà per questo Natale? Ma guardi, se devo essere sincera non ci ho ancora pensato. Ma gli occhiali che indossa quanto costano? Non posso dirglielo. Tanto? E se le previsioni di spesa degli italiani per i regali di questo Natale parlano di una media di 169 euro a testa, in queste strade le cifre sono molto, molto più alte. Budget? Illimitato. 500, 1000 euro, adesso vediamo. A regalo? A regalo. 800 in totale per tutti i regali? Ma sì, per oggi, domani ristabilisco un altro budget. Perché qui non c'è crisi? No, qua no. Lei cosa ne dice? È sempre Natale per noi. Ma oltre ai conti dello shopping c'è anche il tempo per fare un bilancio più politico di questo 2019 che sta per finire. Come sta andando questo paese? Passiamo alla prossima domanda. Catastrofe, direi. Gli italiani vanno bene, ma chi ci governa che non va tanto bene? Questo governo, secondo lei, è troppo di sinistra? No, non è troppo di sinistra, assolutamente, non è... Ha paura che possano mettere una patrimoniale? Ma secondo me la metteranno. Basta queste tasse che mi stanno ammazzando. Ma qual è il partito che più vi rappresenta? Ah, Lega sicuramente. Muto. Direi la destra. Avere istigazione all'odio sociale. No, il servizio. Beh, certo. Tipo, sarebbe da rimettere l'epitentotto. Comunque, scusate. Incredibile, dai prezzi sui regali è andato direttamente alle tribune. Ma lei cosa vota? La Lega. La Lega. Beh, nel 2019 le cose andavano proprio male in Italia, adesso invece. Adesso viaggiamo nell'oro. Sì, nel no. Adesso è c'è tutto... il pilota automatico. Esatto, ovviamente. C'è il pilota automatico. Noi non conosciamo la crisi comunque. Volete malavita? E il lusso non conosce crisi, è vera questa è cosa. È proprio vero, sì. Il lusso non conosce crisi, perché ricchi si arricchiscono sempre. Sì. Beh, io ricordo 2019 a Natale ero a suonare per strada a Vienna e mercatini da panico. Penso sia lo spoilero perché tanto penso sia irripetibile come cosa, ma se mai tutto andrà bene, artisti di strada, andate a Vienna o comunque in Austria per i mercatini di Natale e rapinate duro. Consigli di vita da Slim. Grazie, sì, che sono piccola, sì, che criminalità sono organizzata e diffusa. Questa sì che è la vera rete pirata. Consigli per gli acquisti, anzi, consigli per i furti. No, io non spendo a Natale. Budget illimitato. Illimitato. Più dato. Vabbè. Uno dei regali più costosi che ho fatto è stato l'anno scorso, ho regalato l'abbonamento al Vernacoliere. Grande regalo. No. Beh, regali di Natale. Tu che regali di Natale fai, Bright? Per adesso provo di fare cose a mano adesso. Basta comprare. Perché mi fa fastidio di andare in strade de shop, dentro il shop. E anche non mi interessa di comprare cose perché è Natale. Cioè, se io voglio fare un regalo a te durante l'anno, perché penso a te, perché quello è migliore, cioè ha più senso. Allora adesso sì, faccio qualche piccole cose. Autoproduci il tuo lusso? Non so se è lusso. È un regalo. Sì. Ma i regali sono un po' un lusso, no? Di avere? Vabbè. Ricevere dei regali. Sì. Sono anche antropologi che hanno fatto partire l'inizio dell'economia dal regalo. Quindi cioè, potrebbe essere il primo di tutti i mali il regalo, in realtà. Però noi ce lo viviamo bene, dai. Facciamoci un regalo. Io mando malavita. Vai, manda. Sono nato senza paura, ad ogni cosa è più scura, nessuno mai ci ha regalato niente, ma gente siamo tutti malamente. Amma affrontato sta vita, vinta la strada sbagliata, insieme ai miei compagni sempre tutte notte, addosso vivo solo con rispetto. Forse stava scritto già chi sto destino. Ma la vita a domore si scorda, si l'anno lo sport che peccato, a donente ti pare più giusto e più niente è sbagliato, a due colpi sparato non sa che se deixa sofrado Com aquilo que te vou cantar Quando está em carcerado Ainda nem devo perder a vida Tudo ali Vida verde se indovina Que esta se deixa Se uma galeça é a mão Mas se já trata o bom A mão gole Se uma nada por morir Que se o destino Mas a vida Há dolores, as cordas E lá nos mora Tem a cada Agonia de várias chuchus É que lhe desmaiada Há de outros parados Não sabe que é a vida Se vive de onde está Maravilha Não te fide que te está vigina E te deixa sofrada Que aquilo que te vou cantar Quando está em carcerado Ainda nem devo perder a vida Tudo ali perto E a que esta vida rede Não se vai tornar Abbiamo voluto cambiare un attimo registro perché ci siamo resi conto che ci mancano 10 minuti e torniamo a Patrizio e Plebei, arte del Patrizio. Ricordiamo Radio Wombat, lo studio di Frittole, in diretta l'arte del vizio con l'arte del Patrizio. Vizio, vizio. Cosa sappiamo di queste figure? I patrizi erano i nobili dell'epoca romana. All'epoca. Epoca romana, antica Roma, spendevano, grande Roma, grande impero. Se la godevano. Vabbè, la domanda di fondo era: vivendo, ponendo che tu fossi vissuto in quell'epoca, che cosa avresti scelto, potendo scegliere? Domanda, cioè, tra l'altro totalmente irrealistica. Patrizio o plebeo? Patrizia o plebea? Patrizio plebiu. È una domanda, dicevamo, meno facile di quello che sembra. Ma in realtà, almeno per me, cioè, dovendo rispondere la forma che gli ha dato il nostro reverendo, e quindi proiettandomi in un'epoca molto lontana, 2000 anni fa, tutto sommato avrei preferito fare il patrizio. Ma sì, eh? Ma sì, perché secondo me il lusso stesso è decaduto, cioè il consumismo ha sciupato anche il piacere di essere, non lo so, guardando a cosa sono l'elite oggi, ho l'impressione se la spassassero molto di più ai tempi dei romani. Dici, c'era una nobiltà comunque legata a cose belle, terrene, sì, terricole, gli schiavi. Cioè, vivevi in un mondo molto più crudo, violento, dove vedevi morti ovunque, cioè era molto più tosto, capito? Quindi essere un patrizio, essere un privilegiato, voleva dire avere tutta una cintura di sicurezza da questa violenza. Poi, ora, nel mondo di oggi, bisogna vedere, cioè un conto è da noi in Italia, in Occidente, è un conto è su scala globale, è chiaro, ci sono ancora situazioni... Ma io non lo so. Però... Io non lo so. Però dovessi scegliere oggi, non so se sceglierei nel mio mondo, diciamo, in Italia, se sceglierei una vita privilegiata oppure una vita di privazione. Invece 2000 anni fa, meglio una vita agiata. Non lo so. Però secondo me te la godevi di più. Però sai, ho questa impressione, avevi veramente del tempo libero, ecco la differenza. Ah, quindi la libertà di gestire il proprio tempo. Sì. Che è un lusso che oggi non ha più nessuno. Però il pastore col suo flauto, cioè io me la immagino un po' così, che comunque nonostante le epoche, nonostante le differenze economiche e sociali siano molto più ampie oggi, la patrizità me la vedo sempre un po' come anche un obbligo, cioè un'ostentazione di quella casta che ti portano una serie di obblighi. Invece se sei ai margini e penso lo sceglierei oggi come allora, te l'autogestisci molto meglio. Sì, però ho capito, cioè se poi per esempio poi ti prendono schiavo, chiaro, nel senso può succedere di tutto. No, ma anche gli obblighi del patrizio erano più fighi. Sì, anche gli imperatori venivano però ammazzati, venivano ammazzati un giorno all'altro. Hai capito? È proprio quello il punto, cioè che a me più che i lati materiali, che sicuramente possono essere allettanti, soprattutto per quanto riguarda, non lo so, pensare a un'epoca di privazioni è un po' diversa, vabbè, simile a oggi ma diversa, ecco, mi spaventerebbero, mi allontanerebbero di più tutti i vari risvolti, come dire, anche psicologici della serie: ah, sono in un luogo di potere, qualcuno sta complottando contro di me, qualcuno potrebbe impadronirsi, impossessarsi dei miei averi, delle mie ricchezze, sfruttare il mio potere a suo favore. Ah, una persona sta facendo... Dici, questo succede oggi, non ieri. Ma sì, però sicuramente un pastore, al massimo diciamo, mi hanno rubato le capre. Cioè, il fatto è che io in generale sono abbastanza soddisfatto della mia condizione di plebeo anche oggi. E non so davvero, forse allora avrei scelto quella se avessi potuto scegliere. Vabbè, scusate questo pathos. Ci stavo. Perché scusarci, magnifico. No, non è vero, però chi cazzo lo sa, cioè magari... Sì, no, ma chissà che cazzo era la vita, sì, no? Sì, poi c'è il plebeo e lo schiavo, nel senso... Poi sì, ma poi c'è il plebeo di città e c'è invece il pastore che sta nella campagna. Anche la differenza fra urbe e campagna era molto più radicale rispetto a oggi, perché adesso, oggi... Anche se stai in campagna, comunque magari c'è internet, il cellulare, ai tempi se stavi, se facevi il pastore, ti facevi... Chi ti piglia? Cioè, buonanotte, no, più che altro... Il pastore godeva più che altro non hai veramente contatti col mondo, sti cazzo, cioè, capito, buona... Però se c'hai poco, forse anche quel poco lì è molto prezioso per te e ti spaventa altrettanto perderlo. Che lo so, i mezzadri, no? Che potevano comunque essere cacciati via dal padrone da un giorno all'altro. Cioè, secondo me non è solamente una questione di quantità di roba che possiedi, è una questione di tipo di relazioni sociali, sì, di rapporti anche fra ceti sociali differenti. Beh, e voi entità Gen G, entità Bright, cosa avreste preferito? Io davvero sono troppo... Cioè, è troppo... Non posso immaginarmi in questo periodo. Non... È strano. E allora... Per oggi mi sento bene al mio posto di povera. Penso che è più interessante. Cioè, se si può dire così. E per prima, a questa epoca, mi fa un po' paura. Non voglio pensare a io a questo momento. Era un mondo crudo. Sì. E la cosa che abbiamo detto prima non sappiamo niente, non sappiamo niente. È difficile di sapere se era meglio di... Comunque, la cosa è che mi piacerebbe di essere al posto migliore per la sicurezza e per la felicità, però chissà che parte era. Io sono senza parole. Commosso. A me sono venuto in mente un paio di suscidi eccellenti dell'epoca romana. Oh, uno... Oh, no, proprio no, per vedere cosa facevano le classi dirigenti all'epoca. No? Si, allora, Seneca e Petronio, entrambi sono stati suicidati, cioè l'imperatore gli ha detto guarda, hai rotto il cazzo, quindi devi morire. E Seneca ha fatto proprio sulle orme di Socrate, no, proprio la cosa. Invece Petronio è l'autore del Satiricon, quindi era appunto un autore di cose perverse, no? Questa cosa qua. La prendeva più con umorismo. No, l'ha scialato fino all'ultimo, cioè ha fatto un festino e c'aveva tipo dei rubinetti alle vene dei polsi e via via li apriva in modo da morire via via dissanguato mentre continuava a fare il festino. Capito? Cioè, facevi cose di questo tipo e rimanevano nella storia, cioè 2000 anni dopo ancora Petronio, capito, ce lo ricordiamo, eccetera. Non so se fra 2000 anni ci ricorderemo di Amy Winehouse, cioè, capito cosa voglio dire? Tanto stile, rubinetti alle vene. Capito, cioè, erano veramente epoche leggende, cioè, dove veramente facevi la storia seria a quel livello di classe dirigente, ok? E invece adesso, cioè, c'è il pilota automatico, capito, quindi... in qualche modo il pilota automatico degenera la qualità della vita anche a livelli altissimi, per cui nessuno fa più la storia, capito? Neanche chi sta in cima e chi ha i miliardi, appunto, e muove masse incredibili di potere. Sì, forse proprio per illudersi di star facendo la storia, il lusso aiuta. Sì, aiuta a mantenere l'illusione. A mantenere l'illusione, che siamo importanti. Forse è quello il lusso, è una grande illusione della felicità. E si vola. Ci stiamo guardando veramente con occhi sognanti. Siamo colpiti. Estasiati. Deriva di parole e pensieri. Allora, lussuosi. Purtroppo la serenata in C maggiore sta per finire. Ci abbiamo la Paolino Paperino Band che ci aspetta. E potremmo chiudere così. Che dite? Buonanotte, buon ascolto. Buonanotte. Buona. Restate su Radio Wombat. E sogni d'oro a tutti. Yes. Per chi suona la campana. Ci sentiamo tra un paio di domeniche. Ciao. Ciao. AMDS, associazione nemici del denaro superfluo, in eccesso nel caso eccedesse, cerchi di coraggio, associazione fuori legge. Noi ci introduciamo nelle case di chi ha bisogno di aiuto, sì. Se stesso, avendo accumulato denaro in eccesso, i titoli di Stato, entro al cammino, partono per un viaggio senza ritorno, gli assegni e le azioni, li chiamano nel forno, questa eccedenza di denaro che ha reso a fare allora, noi prendiamo i contanti e con i coltelli affilati, tanti, tanti milioni in un solo momento, tanti pezzettini tutti spazi sul tuo pavimento. AMDS, le nostre soluzioni sono sempre le stesse, non rubare ma alleggerire così. AMD, hai visto con stupore i miliardi bruciare, lo so. Sei rimasto male. Dai quei soldi così, voglio davvero le azioni appoggiare qui. Sei più leggero e si è avverata così. La tua speranza problemi più non avrai con la finanza. Anche se la gente te lo dice, non mi credere, il denaro non ti ha fatto mai felice. Sarai lontano dall'invidia della gente, diranno che sei pazzo, non te ne frega un cazzo. Un cazzo. Cazzo! fuori legge, sì. Il denaro che siede in mina, la tua buona fede, denaro accumulato per lucro personale, contro il diritto infrange la morale. Allora, per salvare la società da ora è permessa una modica quantità, ma tu giustamente ti chiedi chi decide quel che vuoi. Tranquillo, lo decidiamo noi, ALDS. Noi non rubiamo, non rapiniamo, bruciamo gli assegni con questo accendino qui. Hai visto impotente la tua villa cadere, lo so, ha dato un dispiacere. Buttai quei soldi così, fallo davvero, le azioni a bozzare qui, sei più leggero,